da tutti cambiare idea. Lo ammetto, è colpa anche mia. Un punto preso ci butta via, si butta via. Non è un delitto cambiare idea. Lo ammetti, è colpa anche tua. Ma se hai deciso di chiudere, la scelta è tua. Non mi do per vinta mai. Con chi è che fare non lo sai. Non mi fa paura soffrire adesso. Se sai, e se non verso più lacrime è perché ormai so distinguere chi è più sincero e tiene a me. Non è in un letto che puoi giudicare me. I miei battiti non puoi. Tieni in conto i sentimenti. Non mi piego per averti. Oggi no. Ma domani se ci tieni ti convincerò. Oggi no, oggi no.